giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Siccità, agricoltura in ginocchio, prezzi alle stelle, il settore chiede un adeguamento delle politiche agricole. Qualche temporale non basta, non escludo razionamenti, dice da Trieste il capo della Protezione Civile. Nuova bufera sugli incentivi affitti agli extracomunitari, autodichiarazione solo in pochi casi, opposizioni all'attacco. Rinasce con Danieli l'area ex dormish di Udine, diventerà una cittadella della conoscenza per gli studenti. Più di 2000 contagi in 24 ore, ieri in regione 700 positivi ogni 100.000 abitanti sui 7 giorni. Ancora nessuna traccia dell'escursionista scomparso sabato sul Matajur, impiegati anche i droni. 7 anni all'uomo che a gennaio travolse in A28 l'auto su cui viaggiavano due giovani cugine venete, uccidendole. Alpini, arriva in Friuli Venezia Giulia la staffetta che celebra i 150 anni dalla fondazione del corpo. 7:19 minuti di mercoledì 29 giugno, buongiorno da Lorenzo Gerlinzoni e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla regione, alle 6 c'erano 27 gradi a Trieste, mare poco mosso, 25 gradi a Gorizia, a Pordenone 24 gradi, a Udine 23, a Tolmezzo 19 gradi, sul Piancavallo 17, a Tarvisio 16 gradi e mezzo, Forni di Sopra 15 e 5 decimi, a Sappada 13 gradi, sul Monte Zoncolan 12 gradi, 11 e mezzo sul Lussari, sulla costa Lignano 27 gradi e mezzo, grado 27, temperatura del mare nelle due località 27 gradi. Le previsioni del meteo a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi: cielo da sereno a poco nuvoloso variabile, ancora possibili e temporali sparsi in montagna, temperatura in lieve calo e sulla costa soffierà vento da sud-ovest moderato. L'ondata di maltempo si sta dunque concludendo in queste ore, anche se l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile scadrà solo a mezzogiorno di oggi. Nella notte ci sono state piogge, soprattutto in area montana, qualche goccia anche sulla costa, vento sparso, talora anche forte. Non sono stati però segnalati danni di particolare entità e non sono pervenute richieste di intervento ai comandi dei Vigili del Fuoco di Udine e di Pordenone. La siccità e la geopolitica stanno mettendo l'agricoltura in una crisi sempre più grave, con pesanti rincari sui prezzi degli alimentari. Una situazione complessa che per Confagricoltura FVG però è cominciata già prima di questo periodo emergenziale. Piogge inesistenti e temperature costantemente sopra la media stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura. Gli esperti lo stanno ribadendo da anni. La siccità va affrontata con un adeguamento delle politiche agricole. E se poi esplode anche una guerra come quella in Ucraina, che fa saltare alle stelle il prezzo del gasolio, il cui aumento è cominciato però già prima, ad ottobre dello scorso anno, allora il rischio è che i trattori si fermino e l'irrigazione diventi troppo costosa. Se 2 anni fa bastavano dai 20 ai 25 euro per bagnare un ettaro, oggi ne servono 200. Le portate dei fiumi sono ai minimi storici e a preoccupare è ora anche il rischio del cuneo salino. Nicolò Pancera, vicepresidente di Confagricoltura regionale. La bassa friulana sta rischiando, come è successo nel Po, ossia l'ingresso nel fiume Stelle dell'acqua salata, che sarebbe una cosa veramente grave per l'irrigazione di tutta la zona della bassa friulana. L'area del Pordenonese invece sta soffrendo soprattutto nell'asta del Cellina, dove l'acqua veramente scarseggia. La soluzione proposta con gli invasi di raccolta dell'acqua resta impraticabile in tempi brevi, perché si tratta di investimenti troppo costosi che necessiterebbero di una progettazione più articolata. Ogni invaso potrebbe costare fino a 4 milioni di euro. Una situazione complessa che si ripercuote anche sul consumatore, perché i prezzi degli alimenti sono aumentati fino al 40%. Questo è dovuto, oltre alla siccità che si sta imperversando in questo periodo, anche, come dicevo prima, al conflitto russo-ucraino, che sicuramente non aiuta sia l'importazione del grano sia anche la vendita poi del grano nostro locale. Quello che possiamo fare noi è scegliere i prodotti a chilometro zero per sostenere i produttori locali. Come soffrono i consumatori, così soffrono i coltivatori, e cercare appunto di dire non è una speculazione, siamo tutti, mi permetta, nella stessa barca, per cui cerchiamo di incentivare i consumi locali. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il governo è al lavoro sui criteri e sulle misure per lo stato di emergenza, lo ha confermato il capo della Protezione Civile Nazionale Curcio in visita ieri a Trieste. Il governo è al lavoro per definire le misure per lo stato di emergenza dovuto alla siccità, lo ha ribadito il capo della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio in visita a Trieste, dove accompagnato dal vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, delegato alla Protezione Civile, ha fatto tappa al quartier generale dell'Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale in Borgo Grotta Gigante. Il tema della siccità o della crisi idrica è un tema strutturale, quindi si sta lavorando sull'analisi delle puntuali risposte eventualmente da dare e su qualche cosa di più strutturale che ovviamente va al di là del sistema di protezione civile. Tra le misure che potrebbero essere adottate non è escluso il razionamento diurno dell'acqua di alcuni bacini. Sono settimane che in qualche caso qualche acquedotto non è in grado di fornire acqua con continuità. Anche questo è un tema da affrontare bacino per bacino, non c'è un razionamento dell'acqua come se fosse un qualche cosa che può essere distribuito da altre parti, in alcune parti c'è e quindi non si fa razionamento, in altri bacini c'è sofferenza e si fa razionamento, ma questo lo stabilisce poi la situazione reale sul territorio. Curcio ha sottolineato anche la gravità di un'altra emergenza legata alla carenza di acqua, quella degli incendi sempre più frequenti. Abbiamo avuto una stagione invernale proprio nel nord Italia particolarmente impegnativa, è stata la stagione più impegnativa dal 2012. Negli ultimi 10 giorni abbiamo avuto più di 100 interventi, l'anno passato erano più o meno 80, 2 anni fa erano 30. È un indicatore, un numero, quindi sicuramente ci aspetta una stagione complicata. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Come abbiamo sentito proprio adesso nelle parole del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, è quindi allarme anche per gli incendi anche nella nostra regione. Proprio ieri pomeriggio l'area dell'Isert tra Iamiano, Medeazza e Ceroglie a ridosso del Monte Armada è stata interessata da un importante rogo boschivo. A prendere fuoco sono state le sterpaglie rese secche dalla lunga siccità. Le fiamme sono state favorite anche dal grande caldo anomalo. Nessun pericolo però per le zone abitate o per l'autostrada, ma i vigili del fuoco di Gorizia e di Monfalcone sono stati impegnati insieme alla forestale e alla protezione civile regionale per tutta la notte nel domare l'incendio, anche con l'ausilio di un Canadair. Si è trattato del terzo rogo nella stessa zona in meno di un mese. E non c'è ancora nessuna traccia di Giampaolo Baggio, l'escursionista di Torreano, partito sabato scorso per il Monte Matajur con l'intento di risalire la ferrata Palma. Le ricerche che riprendono oggi sono proseguite per tutta la giornata di ieri senza esito, impegnati 25 tecnici del soccorso alpino di varie stazioni, con i vigili del fuoco, i carabinieri, l'elicottero della protezione civile, la guardia di finanza e le unità cinofile, 2 del soccorso alpino e una appunto delle fiamme gialle con 2 cani molecolari arrivati da Vittorio Veneto e da Cortina d'Ampezzo. L'elicottero ha anche portato in quota alcune squadre per le perlustrazioni a pettine dall'alto e sono stati impiegati anche i droni per esplorare da più vicino i canali impervi. Condanna a 7 anni di reclusione per omicidio stradale, aggravato dall'omissione di soccorso e fuga dal luogo dell'incidente, ma senza l'aggravante della guida in stato di ebbrezza. È la pena emessa dal GUP del Tribunale di Pordenone nei confronti di Dimitre Trajkov, di 61 anni, cittadino bulgaro, responsabile del tamponamento mortale avvenuto il 30 gennaio scorso lungo la A28 all'altezza di Azzano Decimo, nel quale hanno perso la vita Sara Rizzotto, di 26 anni di Conegliano, e la cugina Jessica Fragasso di 20 anni di Mareno di Piave. Nell'incidente erano rimaste ferite le 2 bambine della prima donna. A Trajkov è stata revocata la patente, viaggiava a 180 km all'ora quando ha travolto la piccola utilitaria. 175.000 euro le provvisionali immediatamente esecutive, il risarcimento sarà quantificato in sede civile. Raffica di furti tra la destra e la sinistra a Tagliamento. Ieri il più ingente è quello da 120.000 euro nella casa di un imprenditore di Lignano. I ladri sono entrati da un terrazzo forzando una porta finestra e hanno rubato il denaro che il proprietario doveva portare in banca per depositarlo, indagano i carabinieri. E poi ancora 2 colpi simili messi a segno ai danni di anziani a Udine e a Fontanafredda. Travestiti da tecnico del gas e vigile urbano, Milano. Due ladri hanno carpito la fiducia di due anziani udinesi convincendoli a riporre denaro e preziosi nel frigo mentre risolvevano una presunta urgenza, modalità praticamente identica a quella usata a Fontana Fredda, sempre in casa di due anziani. Le coppie sono state entrambe derubate di denaro e gioielli per diverse migliaia di euro. Più di 60 locali pubblici controllati nelle aree della Movida triestina lo scorso fine settimana, come stabilito dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. 195 in tutto le persone identificate, in 8 sono stati sanzionati perché trovati a consumare le loro bevande in bicchieri di vetro vietati all'aperto da una recente ordinanza del sindaco. Un 23enne triestino è stato denunciato perché si è rifiutato di dare le proprie generalità e per oltraggio a pubblico ufficiale, così come un 36enne. Nella nottata di sabato, poi a Trebiciano, in un'area boschiva di proprietà privata, una festa con una cinquantina di persone, tra cui alcuni minorenni con tende da campeggio e una console stereo con grandi casse. L'organizzatrice della festa, non ancora maggiorenne, e il DJ ventenne sono stati denunciati per disturbo alla quiete pubblica. Le apparecchiature sono state sequestrate, così come una modica quantità di presunta sostanza stupefacente. La quarta commissione del Consiglio regionale, e passiamo così alla politica, ha approvato una modifica al regolamento regionale sugli incentivi per l'affitto ai cittadini non comunitari decisa dalla Giunta regionale. In base al nuovo testo, per ottenere il sostegno, gli extracomunitari devono dimostrare di non possedere proprietà nel paese di origine oppure dimostrare di avere fatto tutto il possibile per ottenere la documentazione necessaria senza tuttavia riuscirvi. Una modifica resa necessaria dall'intimazione arrivata alla Regione dal Tribunale di Udine di modificare il regolamento che prima recava solo l'obbligo di dimostrare l'assenza di proprietà. Il consigliere leghista Calligaris difende la decisione, a suo avviso ristabilisce i principi della legge regionale voluta dalla Lega rispettando i principi costituzionali. Utilizziamo gli strumenti che abbiamo per riaffermare principi per noi giusti, ha spiegato Calligaris, e difendere gli interessi dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. La proposta della Giunta, ribattono Moretti e Santoro del PD, è una vergognosa riformulazione della vecchia clausola del tutto discrezionale che non elimina la discriminazione. Su una linea simile, la consigliera pentastellata Dalzovo, che lamenta a sua volta la disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri. Stiamo considerando la possibilità di un esposto al garante, informa il consigliere di Open Sinistra FVG Onsel, per questa ostinata volontà di discriminazione che, dice, non si può se non definire razzista. Oltre 1000 colloqui richiesti ed effettuati solo l'anno scorso negli attuali 3 punti di ascolto accreditati in Friuli Venezia Giulia per contrastare il fenomeno del mobbing sul posto di lavoro. A riferire i dati è stata l'assessore regionale al lavoro Rosolen in audizione al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione. I 3 punti sono presenti nei territori di Gorizia, Udine e Pordenone, mentre a Trieste manca dal 2019. Per essere accreditata come punto di ascolto, la struttura deve assicurare la presenza di almeno 3 professionisti qualificati, un avvocato jus laborista, uno psicologo e uno specialista in medicina legale o del lavoro. Il numero delle donne è comunque sempre superiore a quello degli uomini, ha evidenziato l'assessore, donne che hanno soprattutto un diploma superiore ma anche una laurea. I settori più colpiti nel pubblico sono sanità e istruzione. Realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali uniformi a livello nazionale per reinserire le persone sottoposte a provvedimenti di limitazione o privazione della libertà personale. E questo è l'obiettivo del protocollo siglato ieri dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia, dal Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga e dal Presidente Cassa delle Ammende Gerardo Colombo. L'obiettivo del protocollo, ha commentato il Ministro Cartabia, è dare effettività a ciò che la Costituzione chiede all'esecuzione della pena per un ritorno a pieno titolo dei condannati nella società dei liberi. Per il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga la priorità è una programmazione condivisa degli interventi per realizzare un nuovo modello di giustizia di comunità, per promuovere la coesione sociale e incidere così positivamente sulla sicurezza della cittadinanza, implementando i servizi di giustizia riparativa e soprattutto di assistenza alle vittime di reato. Alle 17.45 a Trieste, in sala Tessitori, in piazza Oberdan, si terrà l'incontro L'emergenza liste d'attesa in sanità, promosso dal gruppo PD in consiglio regionale. Il programma prevede un'analisi del consigliere regionale DEM Roberto Cosolini sulla situazione in Friuli Venezia Giulia e a Trieste e l'approfondimento sulle norme di riferimento e diritti dei cittadini di Flavio Paoletti, della segreteria del PD di Trieste. Previsti i contributi di Rita Lepri, medico di medicina generale e rappresentante del sindacato medici italiani SMI, e di Angelo D'Adamo, presidente di Federconsumatori FVG. E adesso andiamo al bollettino sulla pandemia con i dati di ieri. Continua la crescita del numero delle infezioni da coronavirus in regione. Ieri sono stati 2.044 i nuovi casi, quasi 500 più di una settimana fa. L'incidenza è arrivata a quota 701 casi per 100.000 abitanti in una settimana. Sono stati analizzati oltre 9.600 tamponi, su cui il tasso di positività è risalito sopra il 21%, scesi di una unità ai ricoveri in terapia intensiva, arrivati ieri a quota 859 i ricoverati negli altri reparti Covid, 4 in più. Ieri non si sono registrati decessi. Restiamo in tema di sanità perché c'è una novità per il ritiro dei referti della SUFC, l'azienda sanitaria del Friuli Centrale. Il sistema a rete permetterà presto di ritirare i referti in qualsiasi struttura, indipendentemente da dove si sia svolto l'accertamento. Dal prossimo 11 luglio si potrà ritirare il supporto CD-DVD nella sede più vicina senza essere costretti a tornare dove l'esame è stato effettuato. La procedura riguarda dalle sedi territoriali di Udine, Tolmezzo, Gemona, San Daniele, Latisana, Palmanova e Codroipo e presto anche l'Istituto di Medicina Fisica e Riabilitativa Gervasutta. Nei primi mesi dell'anno circa 500 utenti al mese hanno già utilizzato questa opportunità. E ora parliamo del progetto di riqualificazione dell'ex birrificio Dormish di Udine, passato nelle mani della Danieli per trasformarsi in un luogo dedicato ai giovani, con al centro la sede dell'Istituto Malignani, una struttura completamente rivisitata e riqualificata, destinata a diventare anche un centro per tutta la cittadinanza, ma in modo particolare, come detto, per gli studenti. Oltre 3.000 metri quadrati di superficie coperta, 40.000 metri quadrati il volume lordo del progetto, l'ex birrificio Dormish di Udine si trasformerà in una cittadella della formazione, con spazi commerciali dedicati ai giovani e aperti alla città. Un progetto da oltre 25 milioni di euro che utilizzerà le più avanzate tecnologie, inserendole nel contesto storico del complesso, con un occhio a risparmio energetico, utilizzando la turbina esistente sulla roggia per generare energia elettrica. Iniziativa possibile grazie all'investimento da parte del gruppo Danieli, a cui il comune darà l'appoggio tecnico, oltre a occuparsi della costruzione della rotonda di piazzale Cave d'Alis. Pietro Fontanini, sindaco di Udine. Un recupero interessantissimo, rifacendo in pratica le strutture in forma moderna, però ispirandosi a quella che è l'architettura industriale dei primi anni del Novecento. Una cittadella della formazione per 600 studenti con 4.400 metri quadri di superficie. A gennaio inizieranno i lavori di costruzione e, secondo le stime di Gianpietro Benedetti, presidente della Danieli, a settembre 2024 gli studenti dell'IT Malignani entreranno nelle loro nuove aule. Tutto nasce dalla volontà di dare una più moderna e funzionale sede all'Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Udine, molto attivo e in crescita nella sede provvisoria di Feletto. Gianpietro Benedetti, presidente Gruppo Danieli. Abbiamo detto ok, serve, sì, ci serve, sì, serve anche agli altri, sì, serve al sistema friulano, sì. E abbiamo preso l'iniziativa creando questi spazi, direi, abbastanza avanguardisti sotto un punto di vista funzionale, estetico, ma anche di contenuti, laboratori. Direi che questa è stata la ragione. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà inaugurata oggi a Manzano la nuova sede operativa di European Design School, The Italian Gateway, un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra EDS, European Design School di Kiev, una rinomata realtà formativa della capitale ucraina con network di oltre 5.000 professionisti del settore, e il cluster Legno Arredo Casa del Friuli Venezia Giulia col supporto dell'assessorato alle attività produttive della nostra regione. L'iniziativa ha l'obiettivo di creare un dialogo permanente tra professionisti ucraini e il comparto produttivo dell'arredo del Friuli Venezia Giulia. L'introduzione sarà a cura del presidente del cluster Legno Arredo, Matteo Tonon. E l'assessorato regionale al lavoro ha presentato a Gorizia il Recruiting Day del prossimo 14 luglio. Parteciperanno 5 aziende isontine che stanno cercando personale e offrono contratti sia part-time che full-time. Dal 2020 al 2021 il numero di occupati nell'ex provincia di Gorizia è cresciuto di 1.600 unità. L'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen evidenzia il balzo del settore costruzioni con un più 44%, poi agricoltura più 14%, commercio, ristoranti e alberghi più 11,6%. Le incertezze nella ripresa economica mantengono comunque il tasso di disoccupazione al 7,7%, mentre in Friuli Venezia Giulia è al 5,8%. Regione e Comune promuovono quindi il Recruiting Day del 14 luglio presso il Punto Giovani di Gorizia in via Filzi. Vi parteciperanno 5 aziende territoriali alla ricerca di personale. Gianni Fratte, responsabile dei servizi alle imprese della Regione Friuli Venezia Giulia. 80 posti di lavoro, diversi profili, fra cui nell'area tecnica, magazzinieri, carrellisti, operatori di macchine a controllo numerico, nell'area impiegatizia segretarie, operatrici d'ufficio, avremo anche la ricerca di ingegneri, di responsabili della sicurezza, di project manager. Collegatevi al sito della regione nella parte degli eventi, Recruiting Gorizia del 14 luglio, allegando il vostro curriculum. Stefania Marcolin, manager agenzia Adecco. L'agenzia per il lavoro in questo momento offre non solo opportunità a termine, ma anzi anche numerose opportunità di assunzione a tempo indeterminato da subito. Eliana Lorenzut, responsabile del personale di un'impresa isontina. Come impresa specializzata nel settore dell'imballaggio in cartone ondulato, ricerchiamo autisti di rimorchio con un patentino CQC, carrellisti, meccatronici, elettricisti e poi in produzione operai di linea. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Università di Udine ricorda Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, appena scomparso, e Del Vecchio. A Del Vecchio l'Ateneo di Udine conferì nel 2002 la laurea honoris causa in ingegneria gestionale. Del Vecchio dedicò ai giovani la lectio magistralis che tenne dopo aver ricevuto la laurea, ricorda il rettore Roberto Pinton. Un giovane deve porsi un'idea e cercare di realizzarla in qualsiasi settore egli decida di operare. Se avessi fatto il contadino, spiegò allora Del Vecchio agli studenti, avrei cercato di fare il miglior vino al miglior prezzo vendendolo, come ho fatto con gli occhiali, direttamente al consumatore. E oggi arriva in Friuli Venezia Giulia la staffetta che celebra i 150 anni dalla fondazione del Corpo degli Alpini. La tappa odierna parte da Conegliano in provincia di Treviso ed entrerà nella nostra regione passando per Pordenone e Tolmezzo. Poi domani la staffetta attraverserà Remanzacco e Gemona, dopodomani 1 luglio sarà Avenzone e Udine e infine sabato 2 luglio dal capoluogo friulano fino a tagliare il traguardo di Trieste. Un cammino organizzato dal comando Truppe Alpine dell'Esercito e dall'Associazione Nazionale Alpini, che prevede anche esercitazioni, attività storico-culturali e celebrative e che mira tra l'altro a rafforzare lo spirito di corpo e diffondere i valori e le tradizioni della montagna. Un evento per la nostra regione dove l'attaccamento agli alpini è sempre stato molto forte e dove ha sede il comando della Iulia. Ne abbiamo parlato col colonnello David Colussi, che è comandante dell'ottavo reggimento alpini con sede a Venzone. Si tratta in sostanza di centinaia di appartenenti agli alpini dell'esercito e all'Associazione Nazionale Alpini che in queste 3 settimane hanno coperto più di 1.000 chilometri su un itinerario suddiviso complessivamente in 23 tappe e che collega idealmente le Alpi Marittime a quelle Giulie. La staffetta della memoria della tradizione alpina, dopo aver toccato alcuni dei luoghi più significativi per il corpo degli alpini, toccherà città come Conegliano, Pordenone, Tolmezzo, passeremo a Udine, a Gorizia, per arrivare a Trieste, passando per quelle che sono le sedi di reparti delle truppe alpine dell'esercito e raggiungendo in tal modo montagne, monumenti e memoriali che sono cari a tutte le penne nere. È cambiato il rapporto degli alpini con le generazioni più giovani, ora che per esempio la leva militare non è più obbligatoria? È un rapporto sempre intenso. Gli alpini dell'esercito e l'Associazione Nazionale Alpini abitualmente testimoniano i valori e le tradizioni che contraddistinguono il corpo degli alpini alle nuove generazioni, in particolare ad esempio con conferenze e testimonianze concrete nelle scuole. Ci sarà un'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Alpini in una forma di campo scuola rivolto ai giovani e sarà condotto anche in collaborazione con le truppe alpine dell'esercito. Tra l'altro una sede di questo campo estivo sarà nella nostra regione. Nella nostra regione ci saranno 2 sedi, una a Tramonti e una a Paluzza. E ancora una notizia di cronaca, perché questa notte c'è stata una rissa in centro a Trieste con un uomo che è rimasto gravemente ferito. È successo in viale 20 settembre. L'uomo, un quarantenne di origine straniera, sarebbe stato aggredito da più persone. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata accoltellata o colpita con un bastone. Comunque è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale di Cattinara. Le condizioni dell'uomo sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia. Va alla scrittrice Giumpa Lahiri la 15ª edizione del premio Crédit Agricole Friuladria, la storia in un romanzo, riconoscimento nato dalla collaborazione tra Fondazione Pordenone Legge e il premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta. Nell'ambito della 23ª edizione del festival, in programma dal 14 al 18 settembre, Giumpa Lahiri sarà premiata sabato 17 settembre al Teatro Verdi di Pordenone. Alla cerimonia seguirà l'incontro col pubblico sui legami fra il romanzo e la storia. Sarà l'occasione per presentare il nuovo libro della scrittrice, Racconti Romani, in uscita il 13 settembre per Guanda. E arriva a Udine, Pasolini 100, lo spettacolo promosso dal collettivo Terzo Teatro di Gorizia. Si tratta di una creazione di teatro danza che vedrà sul palco un pool internazionale di coreografi con testi di Massimo Somaglino e voce narrante dell'attore Michele Costabile. La cura artistica è di Elisabetta Ceron. 26 giovani danzatori del Friuli Venezia Giulia e della vicina Slovenia che porteranno in scena forme astratte e gesti della tradizione popolare. Questa sera alle 21 il debutto sotto la loggia del Lionello a Udine, poi in replica venerdì 1 luglio all'Auditorium Concordia di Pordenone, il 3 al Castello Kronberg di Nova Gorizia. Siamo alle notizie, agli appuntamenti sul territorio. Partiamo con la musica. Dopo 2 anni di pandemia torna alla Vedova in Jazz, rassegna organizzata dallo storico ristorante udinese insieme con Simularte. Protagonisti alle 21.45 i Licaones, Mauro Ottolini al trombone e Francesco Bearzatti al sassofono, protagonisti della recente scena del jazz italiano ed internazionale. Per Folkest, appuntamento con gli Emiliani d'Esperanto Trio a San Giovanni d'Antro alle 18.30, dalla ricerca nelle tradizioni musicali di Italia, Francia, isole britanniche, un suono originario e antico affiancato a nuove composizioni. Sempre per Folkest, a Prato Carnico nella piazzetta della Fontana alle 20.45 suoneranno Franco Gordani, finalista alla Targa Tenco nel 2015 con l'album Desordio in Quintetimp e la sua band. Nel 2017 il concept album Trois Paris, che narra le storie della sua valle d'origine attraverso la voce dei suoi poeti, in caso di maltempo all'Auditorium Comunale di Pieria. Alle 18 i comandanti del 31esimo Fighter Wing dell'aeroporto Pagliano e Gori di Aviano ospitano nell'Hangar 11 la nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni, concerto sinfonico con musiche dalle colonne sonore di film indimenticabili. L'orchestra sarà diretta dal maestro Massimo Belli. Dall'Irlanda del Nord per la Celtic Summer Night proposta dal Folk Club Butrio, i Conla a Villa Dora di San Giorgio di Nogaro alle ore 21, ingresso libero. Per approdi futuri, nel Parco del Castello di Miramare oggi e domani alle 21.30 torna Libra, una storia futura, spettacolo per attori ologrammi sul tema dell'universo, delle stelle, dell'inquinamento satellitare, per la regia di Gigi Funcis in collaborazione con l'astrofisico Roberto Trotta, interpretato da Lorenzo Acquaviva, Lucrezia Fantini e Davide Rossi, e la partecipazione in video di Pier Giorgio Odifreddi, Ed Krupp e Carlo Rovelli, in collaborazione con Sissa, con il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, con il Ministero della Cultura e il patrocinio della Regione. Oggi e domani a Udine per Festil e Teatro Contatto, in scena a Udine gli effetti più oscuri e surreali del capitalismo. Questa sera al Teatro San Giorgio alle 21, Stile Live di Caterina Marino, uno spettacolo che affronta il tema della depressione e l'impossibilità di agire che caratterizza il nostro tempo. Domani alle 21.15 Surrealismo capitalista del collettivo Baladam Beside. Dopo Valvasone, lo spettacolo Esperienza il leone, il lupo, la storia e sogno del regista Luca Altavilla inizia il proprio viaggio attraverso i manieri del Friuli questa sera alle 20.15 a Faedis nel Castello di Zucco. Scritto da Angelo Floramo e prodotto dal gruppo Artistic Furlan, traccia una narrazione onirica che porta il pubblico faccia a faccia con la casata dei Cucagna, con Papa Gregorio XII, Erasmo di Valvasone, Napoleone e Pasolini. L'ingresso è libero. Per raggiungere il Castello di Zucco è necessario percorrere l'antico sentiero medievale che parte da Borgo Santa Anastasia sulla strada per il Canal di Grivò. Per bambini e famiglie in piazza Remigio a Porcia alle ore 21 e in caso di maltempo nella sala Diemoz di Via delle Risorgive, Pur Lilium Estate 2022, Comune di Porcia e Orto Teatro, per il teatro C'era una volta, propongono lo spettacolo Storie dei cieli del mondo con Fabio Scaramucci. Primo appuntamento a Pordenone con Donne in Viaggio, che l'associazione Tesis porta nell'ambito dell'estate in città per Dedica Incontra, insieme alla libreria Quo Vadis, nella Corte Torres di Corso Garibaldi alle 21. Che cos'è la biodiversità? Conversazione con Valeria Barbi, ideatrice e responsabile scientifica di We Are Nature Expedition, un progetto di reportage che ha come obiettivo quello di documentare la perdita di biodiversità e il rapporto tra uomo e natura lungo la Panamericana, la strada che collega l'Alaska all'Argentina. Revanzacco, Auditorium De Cesare alle 20.30, serata di informazione sanitaria, una medicina territoriale in trasformazione, quale futuro per la nostra salute? Ora lo sport, cominciamo dal basket, si separano le strade dell'Up World Wild West Udine di Alessandro Cappelletti al termine di una stagione dominata con i colori bianconeri e culminata con la vittoria della Coppa Italia di Serie A2 e il premio di miglior giocatore italiano del campionato. Il playmaker umbro, classe 95, giocherà a Verona. Alle 7.51 minuti la rassegna stampa, un divieto ministeriale sulla strada della Cabinovia, titola Il Piccolo di Trieste. Il rebus giuridico è emerso in vista della valutazione ambientale dell'opera che dovrebbe collegare Molo Quarto, Park Bovedo e il Carso. Sotto esame in particolare il decreto che proibisce impianti di risalita in aree protette, ma per il comune in questo caso la norma non sarebbe applicabile. A centropagina la fotonotizia, tuffi vietati al CEDAS in arrivo, segnali e controlli di spalla la cronaca cittadina. Il PNRR regionale cresce di 32 milioni, ma dal piano spariscono i 16 milioni che erano previsti per il Museo Ferroviario di Trieste. Poi l'inaugurazione della casa speciale per rendere più autonomi i ragazzi con autismo. Si chiama Modulo Respiro ed è stata inaugurata in Largo Bonifacio. Ancora Palazzo Artelli torna all'asta, prezzo di partenza 1.100.000 euro. Sul Piccolo di Gorizia i 10 assessori per la nuova giunta Ziberna, ci sono 4 donne. La fotonotizia è sulla scomparsa nel nulla 11 mesi fa di un gradese, Alessandro Zaniboni, sulle montagne della provincia di Nuoro in Sardegna. Nessuno più lo sta cercando, accusa il fratello dello scomparso Gianluca Zaniboni. Di spalla il restyling del Pala Bigotta a Gorizia, costerà 4.500.000 euro, quindi la proposta di una Confcommercio unica Trieste-Gorizia sul modello della Camera di Commercio. A Monfalcone canale Dottori a secco per la siccità, prodotti anti-odori e corsa per il salvataggio della fauna che vive nel canale, ma la città non è a rischio idrico. Università esclusa dai finanziamenti dei progetti digitali e l'apertura del Messaggero Veneto di Udine. Tutto il nord-est, si legge, è stato tagliato fuori dai fondi della rete degli hub europei dell'innovazione. Sotto una foto della ex Dormish di Udine, intervento da 25 milioni, il tema apre la cronaca cittadina. Di spalla, morto Roberto Trevisan, fu referente della sanità per il PD regionale. Sotto, un incidente a Tolmezzo ieri mattina, un'auto dopo lo scontro travolge un pedone. L'uomo travolto non sarebbe in pericolo di vita. Mettete i vostri soldi nel frigo, rubati 25.000 euro a una coppia di anziani, poi il maxi furto da 120.000 euro di Lignano. In alto la siccità, a fianco i contagi, mai così tanti da febbraio, e in basso Giovanotti a Lignano e conta la rovescia per il beach party. Sul Gazzettino, caldo record, già 1.000 emergenze. Nella fotonotizia un'immagine del progetto della ex Dormish. Di spalla Federica si sbilancia sul progetto Sparcasse per Civi, banca un affare, dice, e sotto in un anno 1.000 denunce per mobbing. Apertura per il caldo anche sul Gazzettino di Pordenone, che a centropagina ha una scena dell'incidente di gennaio scorso in A28, 7 anni per la morte delle due cugine. Accanto Covid, la regione cambia, isolamento solo ai veri malati. Task force al lavoro per non bloccare gli ospedali. Di spalla concorso per la scuola, una beffa per precari, e sotto a Fontanafredda si fingono vigile e tecnico e derubano un'anziana coppia. In basso Pordenone, la città under 80.000 residenti più a misura d'uomo secondo la classifica Ernst & Young. E apertura del Messaggero Veneto di Pordenone per Electrolux, costretta di nuovo a fermare la produzione dopo Porcì e Forlì anche a Solaro in Lombardia. Nella fotonotizia le due cugine venete uccise in A28, 7 anni all'investitore. Di spalla all'ospedale un vertice sull'abbattimento dei vecchi padiglioni. Poi a Sacile una spada medievale, antichi codici recuperati dai carabinieri, domani la consegna alla soprintendenza, e il furto degli anziani. A Fontanafredda infine la nuova giunta di Maniago. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia, andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vue o Fevelendì parlerà dei positivi dati del mercato immobiliare 2021 in Friuli Venezia Giulia. Alle 11.20 a volo radente, puntata dedicata ai lavoratori stagionali. I programmi regionali tornano poi alle ore 13.29. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale, regia Andrea Fontanot e Walter Vidonis. In redazione ha collaborato Samantha Agon, da Lorenzo Gerlinzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.